laggiù dove il fiume si lega alla grande vallata, c'è una cittadella bianca fortificata. Fra le sue vie c'è chi balla e chi ci resta in posa, fra fiocchi, profumi ed un'aria frizzante e festosa. Il vino novello che scorre come l'acqua di fonte, sui tavoli il legno pregiato, il cibo abbondante. Ma se dopo tanta goduria sarà l'anima stanca, c'è pronta a salvare dal tedio la polvere bianca. E dalle finestre socchiuse del castello sul monte arriva lo sguardo bonario del casato regnante, che offre sorrisi e ricchezze ai fedeli vassalli, il pugno di ferro e la frusta per quelli ribelli. E quando poi un sole già stanco comincia a calare, davanti alle porte qualcuno si mette a aspettare. In meno di 3 o 4 ore diventano migliaia lì sotto le mura seduti in mezzo alla ghiaia. A notte inoltrata s'affacciano i signori gaudenti e lanciano monete d'oro ai nuovi aspiranti. E nel parapiglia che segue ti va già di lusso se non ci rimetti la testa o qualche altro osso. E dalle finestre socchiuse del castello sul monte arriva lo sguardo bonario del casato regnante, che offre sorrisi e certezze ai fedeli vassalli, il pugno di ferro e la frusta per quelli ribelli. Qualcuno più svelto, più furbo, o forse più dotto, riesce a passare il portone scavando di sotto. Per uno che passa e che arriva, fra luci e tesori, un altro milione che resta a guardare da fuori. La notte è passata ed il giorno già incombe, un fiume di stracci ritorna trascinando le gambe. Nessuno lamenta o protesta la sua situazione, aspettano tutti di avere un'altra occasione. E dalle finestre socchiuse del castello sul monte arriva lo sguardo bonario del casato regnante, che offre sorrisi e ricchezze ai fedeli vassalli, il pugno di ferro e la frusta per quelli ribelli, il pugno di ferro e la frusta per quelli ribelli, il pugno di ferro e la frusta per tutti i ribelli.